Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Radio Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Meno due puntate alle ferie agostane e lo facciamo oggi in una puntata particolarmente interessante perché abbiamo chiamato Ludovico Campana, che è il co-founder, l'amministratore e l'inventore di Took Technology, di cui sicuramente sono certo che i nostri ascoltatori hanno sentito parlare tantissimo nelle ultime settimane. Diamo il benvenuto a Ludovico. Buongiorno, benvenuto Ludovico. Buongiorno, buongiorno Pepe. Allora Ludovico, se ne è parlato tantissimo, ma magari qualcuno l'ha solamente sentito. Aiutiamo un attimo i nostri ascoltatori a capire che cos'è Took Technology. Partiamo da qui. Assolutamente sì, ti ringrazio per l'invito. Innanzitutto, Took Technology è una startup, come hai annunciato te, fondata da me e da Sergio Pininfarina per rivoluzionare il mondo dell'automotive, che sta vivendo tra l'altro un cambiamento epocale, quindi elettrificazione, digitalizzazione, personalizzazione dell'esperienza di viaggio, no? Sì. Sempre più una società condivisa, connessa, just in time. E quindi qui nasce proprio Took. Che cos'è Took? È un'invenzione industriale che riesce a sintetizzare in un unico connettore, chiamiamolo Lego, no? Tutti gli ingredienti necessari per costruire gli interni del futuro. Quindi tu mi stai dicendo fondamentalmente questo è come se fosse un middleware, sia fisico che sia hardware che software, che permette di smontare e rimontare gli interni a mio piacimento, cambiandoli, perché ogni volta che io monto un nuovo oggetto, quell'oggetto comunica con la piattaforma automobile, corretto? Corretto, assolutamente sì. Quindi in un certo senso cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato questa lingua universale che è il sistema operativo a cui sono legati questi connettori. Sì. No, quindi un'unica centralina, un unico gestore del sistema, differenti spot, differenti connettori per ancorare oggetti che possono essere appunto sedili, plance o macchine del caffè, come abbiamo visto l'esperimento che abbiamo fatto con la Vazza, no? Sì. Questo perché è importante? È importante perché nel mondo delle auto ad oggi abbiamo una stratificazione di componenti che derivano appunto dagli anni, dai progressi tecnologici, quindi vediamo, siamo passati dalle macchine elettroniche, adesso stiamo passando alle macchine digitali, quindi c'è bisogno di un'architettura nuova che riesca a gestire flusso dati e appunto semplificando l'architettura elettrico-elettronica del veicolo. Quindi noi diciamo che la vision di Took attendere è quella di andare a dire che ormai il business non è più tanto quello di vendere una singola automobile, ma come ci insegna il mondo della tecnologia è la fidelizzazione del cliente, è la vendita di servizi e quant'altro. Quindi lo vediamo bene con l'esempio degli smartphone. Cosa fanno i signori? I signori ci vendono un dispositivo neutro e tu man mano, a forza di customizzartelo e aggiungendo funzioni, uno, acquisti servizi, appunto applicazioni, due, rimani fedele a loro perché comunque sei in un ecosistema, no? Certo. Quindi quello che noi vogliamo dire è, grazie a Took Technology, questa infrastruttura tecnologica da inserire nei pianali di veicoli esistenti o meno, elettrici o non elettrici, diciamo che non è la cosa che ci caratterizza quello, possono andare a creare appunto questo ecosistema. Chiunque abbia questo standard Took, un po' come i seggiolini delle auto, hai presente che cioè il sistema ISOFIX. ISOFIX è esattamente quello. Quindi Took è un ISOFIX evoluto ed esteso a tutto il veicolo per tutti i componenti. I dati che vengono trasmessi e vengono, immagino, messi a disposizione anche dalle terze parti, cioè il seggiolino della Chicco che oggi parla con l'automobile avrà bisogno a sua volta di ricevere delle informazioni, è corretto? Quindi il viaggio dei dati è bidirezionale tra i vari partner che forniscono o che permettono gli accoppiamenti dei device, è corretto? Noi cosa facciamo? Took non è proprietaria di nessun dato che fluisce in questa piattaforma, perché ovviamente è una soluzione che noi vogliamo mettere nelle mani del costruttore. Quindi il costruttore, mettendo Took questa infrastruttura, si ritrova già un sistema di scambio dati e tutto un appunto ecosistema di partner che hanno iniziato a sviluppare componenti tali per cui può accedere a cose che a oggi non ha. L'altra questione è che ovviamente, come ti dicevo prima, Tuca è una lingua universale, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato questo sistema operativo che riesce a capire se in un connettore c'è una plancia con uno schermo, oppure un sedile con un sistema audio, oppure Chicco con il sistema antiabbandono, Chicco Baby Care, sì, per esempio, che è l'esperimento che abbiamo proprio concluso qualche settimana fa con la presentazione di Tuca 2.0. Sì. Questo vuol dire che il nostro sistema è già programmato per lo scambio dati su circuito TUC, che però ovviamente verrà messo nelle mani del costruttore. Ludovico, secondo te come cambierà a questo punto, con l'adozione di simili tecnologie, il modello di business del mondo dell'automotive? I nuovi modelli di business che possiamo per esempio prevedere, che noi con i nostri calcoli negli anni ci siamo fatti, sono: uno, ovviamente quello di andare domani a costruire un veicolo secondo le richieste dell'utente. Sembra una cosa veramente molto banale, ma ad oggi non è assolutamente possibile, certo, acquistare un benedetto veicolo secondo le tue esigenze. Certo. Quindi hanno bisogno di poter scegliere. Questa scelta innanzitutto può essere già messa nello stabilimento. Quindi arriviamo dopo l'assemblaggio, per esempio, di tutta la scocca, sì, con i TUC all'interno, o finisce in questa maniera e va in store, come noi prevediamo che sia una cosa che vada ad incrementare la user experience, va nello store di qualsiasi brand neutro e poi proprio il viaggio dell'acquisto è sulla guida del componente che più fa per loro, e quindi qui c'è una marea di business da fare sulla stagionalità, sul cambio componenti, certo, che non finiscono più. Il secondo è poter utilizzare un unico pianale, mm-hmm, per scopi totalmente differenti. Per esempio, l'automobile ad oggi, la disabilità mi viene in mente, l'esperimento che abbiamo fatto con Guido Simplex del sedile per la disabilità, sì, a bordo, lo possiamo con il nostro sistema mettere all'interno e quindi viene subito gestito. Qual è la grande differenza? La grande differenza è che oggi va acquistato un veicolo, poi si porta da un customizzatore che viene praticamente, diciamo, un po' smontato e rimodellato sulle esigenze di questo utente disabile, e con delle spese enormi, no? Quindi noi dicevamo appunto standard, perché si possono aprire una marea di cose. La terza strada è quella appunto dei dati, quindi dei servizi pay per use. Certo. E qui l'esperimento di Lavazza è molto importante. Perché? Perché abbiamo fatto vedere come in un veicolo che non abbiamo fatto noi, quindi TUC più piattaforma Volkswagen MEB elettrica, per vedere come è stato facile implementare questo connettore su un pianale esistente elettrico. Lavazza, che è un personaggio, un player molto importante e provocatorio, no? Perché se può accadere il caffè, chissà cos'altro può accadere. Certo. No? E qui è importante, perché Lavazza ci disse: ragazzi, in America il secondo business dopo il petrolio è il food and beverage, mobilità. Certo. No? Quindi se si riesce in qualche modo a prendere questo food and beverage nella mobilità, certo, per noi, per il mondo, diciamo, no, della mobilità, è una cosa importantissima. Quindi componente fisico realizzato da Lavazza su standard TUC, e tramite il sistema operativo TUC un'applicazione che fidelizzasse il cliente con l'esperienza Lavazza. Ma quanto sono ricettivi i costruttori, che normalmente, peraltro, lavorando su piani di sviluppo di modelli di automotive, di automobili che durano tra i 5 e i 7 anni, gli 8 anni anche, hanno dei tempi lunghissimi, come si sono comportati di fronte a questa vostra invenzione? Guarda, qui devo dire che siamo abbastanza soddisfatti, perché ci rendiamo conto di dire un qualcosa di molto particolare per un mondo che comunque, come dicevi te, ha questi tempi, però siamo anche in un tempo storico importante, quindi adesso si devono fare le strategie per sopravvivere i prossimi anni, no? In generale, certo, un po' questo sta coinvolgendo tutto, quindi vediamo una grande attenzione. Mi piacerebbe dirti i nomi, ma non posso ancora dirli, quindi non li vuoi spoilerare a Radio 24? Non li posso, quindi me li tengo ancora per me, e quindi no, però ci sono veramente player, e sono contento anche del fatto che non solo europei. Abbiamo grandi player americani e asiatici con i quali stiamo parlando. E quando vedremo TUC sul mercato, disponibile già, embeddato nei device? Guarda, qui lo sforzo che noi abbiamo fatto è esattamente questo. TUC, così come oggi, come è stato presentato il 25 giugno in versione pre-industrializzata, ci può mettere 14 mesi ad arrivare sul mercato. Questo vuol dire che però adesso la parola aspetta un costruttore. Chiaro. Quindi se il costruttore decide di inserirlo, in 14 mesi potrà farlo. Okay. Quindi qui aspettiamo uno dei costruttori più coraggiosi di altri per poter dimostrare, anche solo in una miniserie, in un qualcosa, diciamo, di un pilot industriale per dimostrare queste funzionalità. Noi l'ecosistema di partner l'abbiamo costruito, quindi Bosch, Lavazza, Chicco, Guido Simplex, Sabel, per esempio, no? Sedili molto belli, ci sono. Se ne stanno aggiungendo altri, quindi se i costruttori dovessero poi formalizzare, la cosa bella è che Duke porta anche questo nuovo ecosistema di partner. Dobbiamo fare allora i nostri migliori in bocca al lupo a Ludovico Campana, amministratore delegato, co-founder e inventore di Duke Technology, che potrete andare a vedere sul sito www.duke.technology. Ludovico, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi per l'ospitalità, grazie mille. E ringraziamo come sempre i nostri ascoltatori per essere stati con noi. Vi ricordo i nostri appuntamenti il lunedì con il podcast esteso e la prossima settimana, domenica, ore 13:45, per una nuova puntata di Radio Next, dove ci faremo i nostri saluti prima delle vacanze. A tutti quanti voi una buona domenica e un saluto da Pepe Moder. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.